9 in punto. Ricordati! Mancano 17 giorni all'aumento dell'IVA. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, un saluto particolare e molto caldo a tutti quelli che mi hanno scritto su Twitter nelle settimane scorse: ma piantatela con questo countdown verso l'aumento dell'IVA, che Letta ha detto nel discorso in Parlamento che lo eviterà o farà di tutto per evitarlo. Bene, da ieri abbiamo più o meno l'ufficialità. Il ministro Saccomanni ha detto non ci sono le risorse, Zanonato ha detto non ci sono le risorse, a quanto pare Saccomanni sta lavorando per un rinvio, quindi semmai aggiorneremo il countdown nel momento nel quale ci fosse un rinvio. Oggi vogliamo parlare però di lavoro, di quello che si prospetta sul fronte dei provvedimenti per la disoccupazione giovanile. Si sta ragionando, leggiamo dai quotidiani e dalle indiscrezioni che stanno circolando, che si sta ragionando su una decontribuzione, detassazione sostanziale per i neoassunti tra i 18 e i 29 anni. Quello che ci vogliamo chiedere oggi e che chiediamo a voi se è una cosa che serve davvero alla fin fine, perché insomma il punto è questo: se un'azienda non ha ordini, comunque non è che assume, e se un'azienda ha ordini, funziona, va bene, probabilmente assume lo stesso. Ma fermiamoci un secondo, ma tutta questa gente senza lavoro, no? Ma lei non è anche un po' dispiaciuto per queste persone? Sinceramente, me ne foto io di questo. Poi dico io, sta cosa della disoccupazione è tutta una truffa, se il lavoro non ce n'è che cosa cerchi, va? Staccate la spina così la smettiamo di parlare di disoccupati. Ma non è la soluzione quella, scusi. Questo per dirlo con Cettola Qualunque, per dirlo con Patrizio Bertelli, patron di Prada, oggi al Sole 24 Ore, intervenuto ieri tra l'altro al quinto Luxury Summit del Sole 24 Ore. Sento ripetere come un mantra che bisogna creare occupazione, e a farlo dobbiamo essere noi aziende, ovviamente. Le aziende assumono se hanno bisogno di aumentare la produzione, ma se c'è crisi dei consumi e nessuno in Italia vende più, come fanno ad assumere, dice Bertelli. Buongiorno Carlo Della Ringa, deputato del Partito Democratico, sottosegretario al Ministero del Lavoro, e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. E ben ritrovato naturalmente. Come sapete, insomma, è anche uno dei maggiori esperti di lavoro del nostro paese. Saluto anche Giulia Leggio, imprenditrice, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, se decontribuissero e detassassero per i giovani tra i 18 e i 29 anni, lei assumerebbe oppure no? Io assumerei assolutamente, ma secondo me il problema non è solo questo. Il problema è che ci vuole anche un po' più di flessibilità in entrata e uscita. In che senso? Nel senso che io ho una seria difficoltà a mandare via, licenziare delle persone assolutamente incompetenti o che non hanno più voglia, non hanno più stimoli a lavorare nella mia azienda. Io le posso portare un esempio tragicomico che è capitato un paio di anni fa, in cui c'era un ragazzo che lavorava da noi da 4-5 anni e praticamente abbiamo trovato a rubare. Abbiamo chiamato i carabinieri. Abbiamo fatto la denuncia con loro, lo abbiamo licenziato, lui ci ha fatto un'avvertenza sindacale e abbiamo pagato 3 mensilità. Ora, non è per i soldi, è per il principio. Come faccio io a licenziare una persona che non ruba? E quindi dice a questo punto come faccio ad assumere naturalmente? 800 24 800 24 0024 per intervenire in diretta e per dirci la vostra anche su www.facebook.com/9in.radio24. Vedo anche una certa rabbia nei vostri commenti da stamattina su Facebook. Ci dice dice qualcuno, per esempio, io che ne ho 40, sai che gusto, di anni, non sarebbe meglio un decreto per cui chi ha 50 anni viene terminato? In questo modo creiamo occupazione, sono un genio, potrei candidarmi. Lea Mainardi ci scrive, ho 36 anni, sono disoccupata da 8 mesi, ieri il commercialista mi dice che ho le tasse da pagare come lavoratore dipendente da CUD 2012, e insomma con un'espressione volgare dice che non pagherà. Allora, professor Della Ringa, dà l'impressione un po', insomma, anche a tastare il polso, cosa che ho fatto ieri pur con un mezzo limitato che può essere Twitter, che può essere Facebook, che possono essere i social media, dà l'impressione di essere sicuramente un provvedimento tampone, ma può funzionare anche come tampone, professor Della Ringa? Sì, certamente nei limiti in cui si è detto. Innanzitutto partiamo da un fatto che mi sembra tutti condividano: il lavoro viene fatto dalle imprese, ecco, questo è un dato di fatto, e le imprese fanno lavoro se conviene a loro, perché nessuno è benefattore, e quindi se ci sono condizioni sia sul lato dei costi, sia sul lato del mercato di sbocco, che permette di produrre e quindi di assumere, e quindi si può intervenire su entrambe diciamo, le facce della medaglia. Quello del mercato non c'è dubbio, come si diceva, lei stesso ha detto, se le imprese non vendono c'è qualche difficoltà che possono assumere, ma talvolta sono impedite anche dal fatto che ci sono dei costi troppo elevati. Il lavoro è uno, ma sappiamo l'energia, sappiamo il credito, sappiamo il fisco e anche il lavoro, non tanto perché i salari sono molto elevati, perché in questo periodo fanno fatica a tenere dietro l'inflazione, ma perché c'è il cuneo fiscale molto elevato e perché probabilmente anche, insomma, insieme a tante altre cose, le imprese trovano qualche difficoltà a assumere, perché ci sono delle norme sui rapporti di lavoro che loro le interpretano come dei paletti, no? Delle sorte di cose da girare, e fanno fatica, costi ulteriori, e quindi cercano di rimuovere anche questi. Quindi, gli incentivi alle assunzioni, beh, per quello poco che possono fare, perché poi dipende da quanti soldi ci si mette sopra, rappresentano una riduzione del costo per le assunzioni di giovani, che sono quelli che ne hanno più di bisogno. E poi certo, in questa fase bisogna rivedere un po' alcune norme che sono state introdotte da una legge, quella del precedente governo, che forse immaginava un'economia che tirava, in cui le imprese volevano assumere, allora si diceva, allora se le imprese assumono è meglio che assumano su base permanente, a tempo indeterminato, perché siamo stufi del precariato. Adesso, quando le aziende hanno mille difficoltà e c'è qualcuna che magari è disposta anche a occupare un giovane per 5 mesi, 6 mesi, 7 mesi, un anno, ecco, allora prima di dire teniamo questi paletti, forse varrebbe la pena in questo periodo di toglierli, di meno da dare al giovane la possibilità di interrompere periodi di disoccupazione che altrimenti sarebbero oltremodo troppo lunghi. Ecco, lei ci conferma che l'ipotesi sulla quale si sta lavorando e che stiamo in questo momento naturalmente leggendo dai giornali è un'ipotesi che preveda questo sgravio contributivo e fiscale per i giovani assunti a tempo indeterminato, perché a questo punto, anche sulla base di quello che lei ci dice, è dirimente questo elemento. Sì, certo, ma questo succederà senz'altro. Quindi solo per i tempi indeterminati, sostanzialmente. Beh, sì, anche per questo motivo che le dicevo prima, no? Potrebbero essere misure che si rafforzano a vicenda, complementari, e che insomma danno anche l'impressione di pensare un po' a tutto in questo ambito limitato che è quello delle assunzioni. Se vogliamo rendere i contratti a tempo determinato, cioè quelli con una scadenza, un po' più agevoli per le imprese, quindi un po' più flessibili, e quindi questo è sempre un discorso da fare con cautela con i sindacati, perché dicono questi vogliono reintrodurre altre forme di precarietà, noi non diciamo no, perché in questo periodo, insomma, tutto sommato questi contratti non è che siano, diciamo così, precari in assoluto, perché le protezioni di legge, dei contratti collettivi, i minimi sindacali sono osservati, certo sono a termine. Ecco, vogliamo sfruttare un po' di più queste occasioni, anche perché nella pubblica amministrazione gli stessi sindacati hanno insistito perché i contratti a termine venissero rinnovati, allora perché nel pubblico impiego e non nel privato? Togliamo quindi dei paletti alle imprese in modo che li possano rinnovare senza aspettare un mese e mezzo, che per loro è un intralcio. Al contempo, però, per non dare l'impressione di insistere sulla flessibilità, ecco, diamo degli incentivi incentivi alle imprese che assumono sia a tempo determinato, ma che siano invogliate poi a trasformare questi contratti in contratti permanenti. Mm. Ecco, quindi diciamo, si contemperano un po' le diverse esigenze, incentivando le imprese a fare queste trasformazioni. Licia Mattioli, presidente degli industriali di Torino, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, ieri lei ha lanciato una proposta abbastanza tosta, che forse farà arrabbiare qualcuno, forse proprio quei sindacati dei quali parlava il professor Della Ringa. 3 anni di sospensione dell'articolo 18, così? Guardi, in realtà la proposta è stata, ovviamente, perché quando si parla di 18 tutti alzano una barriera preventiva, ma è stata 3 anni di sospensione sì, ma solo nei riguardi di quei rapporti di lavoro che verranno in essere con i giovani e che dovranno essere a tempo indeterminato. Quindi parliamo praticamente di una prova che vorremmo fare, visto che noi consideriamo questa situazione, come diceva giustamente prima il professore, consideriamo questa situazione una situazione in cui ci sono una serie di paletti, no? Che in un mercato così difficile come quello attuale rendono ancora più complicato i rapporti, il rapporto i contratti, la programmazione dei contratti. Quindi noi cosa abbiamo detto? Facciamo una prova shock, visto che il momento è difficile, applichiamo una medicina complicata, che è questa, e vediamo che risultati dà dopo 3 anni. Quindi contratti a tempo indeterminato, senza tutti questi vincoli, no? Solo per i giovani, e solo per un periodo determinato, alla fine del quale si farà una verifica della situazione. A questo punto vedremo che se effettivamente questo tipo di medicina ha sortito degli effetti o meno, no? Perché tutti dicono, la reazione dei sindacati è stata: ah, ma tanto si è già fatto, non è servito. Io non sono convinta, perché è stato fatto in un contesto nel quale non c'erano tutti quegli elementi che permetterebbero di verificare veramente l'eliminazione di questo tipo di tappo, no? E di vincolo. E quindi credo che sarebbe molto interessante poter vedere quale tipo di risultato darebbe questa operazione. Tenga anche presente altresì che io dicevo ieri, perché poi decontestualizza quello che lei ha detto, ovviamente ha un significato diverso. Noi parlavamo di una situazione molto difficile, soprattutto per il Piemonte in questo momento, e per la città di Torino in particolare, dove il manifatturiero nell'automotive ha perso il 42%, no? Quindi sa, è una situazione veramente difficile. Sì. E allora dicevamo, in un contesto nel quale bisogna fare delle cose a livello europeo, quindi parliamo di politiche monetarie, perché noi puntiamo sull'export, siamo una regione che punta moltissimo sull'export e poi abbiamo un euro che non ci consente di andare da nessuna parte, no, concettualmente. Quindi c'era stato detto questo, era stato detto ci aspettiamo, come si sta facendo, come diceva il professore prima, una politica che tolga il cuneo fiscale. Cioè, in una serie di riforme, questo era uno degli elementi, capisce? Non sì, solo sì, questo, sì, sì, sì, no, chiarissimo, però dato che oggi appunto siamo su quel tema là, è chiaro che poi il discorso è complessivo. Giulia, mi permetta solo una cosa ancora. Sì, quello prego. Che dicevo anche ieri è che io, parlando con un sacco di giovani che abbiamo assunto, devo dirle che sono i primi a non interessarsi più di tanto della forma contrattuale. Allora quello che interessa è il lavoro. Basta che mi assumi e mi dai i soldi, giustamente. Allora Giulia Leggio, in caso di un fatto di questo genere, sospensione per 3 anni dell'articolo 18, è ancora in linea con noi, no? Pronto? No, non c'è. Allora, professor Della Ringa, innanzitutto la volevo molto brevemente, perché so che poi ci deve salutare, su questa ipotesi, se le sembra interessante, se le sembra praticabile, anche politicamente, dico naturalmente, da una parte, e dall'altra parte le volevo chiedere se riesce a scioglierci il nodo di quante risorse sono sul piatto per questa operazione di defiscalizzazione e decontribuzione dei contratti per i neoassunti giovani. La prima, sono d'accordo su tutto il contesto del discorso, tranne che sul punto dell'articolo 18, ma per questo motivo, a parte che questi tipi di proposte erano state fatte anche nella precedente legislatura e anche da qualche deputato del mio stesso partito, per cui insomma se ne potrebbe parlare e riprendere il discorso. Il contesto però è giusto, e dopo riprendo anche il discorso dell'articolo 18, il contesto è giusto, cioè una moratoria. Infatti le proposte che verranno fuori anche diciamo così, dal governo, che sta sentendo le parti sociali insomma su questo, perché vuole un minimo di dialogo, ci deve essere, anzi, visto che le parti sociali in questo periodo stanno andando fra di loro abbastanza d'accordo, c'è un terreno fertile anche per che ci sia un dialogo costruttivo. E quindi questo di una moratoria per i giovani, sì, perché è l'emergenza, quindi bisogna dire facciamo il massimo di flessibilità che anche i sindacati sono disposti ad accettare, sapendo che tra 2 o 3 anni insomma questa crisi fa sì che noi dobbiamo sfruttare tutto quello che si può creare, non va buttato via niente, diciamo così, delle occasioni di lavoro, certo nel rispetto della legge, ma soprattutto di quella flessibilità che sappiamo tutto sommato è buona anche in normali circostanze. Mi scusi, ho capito bene, una moratoria sulle regole per i licenziamenti? No, per licenziamenti, sulla flessibilità in genere. Sui licenziamenti l'articolo 18 non è all'ordine del giorno per un semplice motivo: noi abbiamo passato tutto l'anno scorso praticamente litigando fra le parti sociali su questo punto. Come è stato detto, poi se le imprese non vendono, noi possiamo fare tutta la flessibilità che vogliamo, ma possiamo dare un contributo non modesto. Se poi tutta l'attenzione politica, le risorse politiche, le preoccupazioni, i litigi, le instabilità devono ruotare ancora una volta attorno a questo punto, che purtroppo è diventato un punto ideologico per molti, ancorché uno fosse d'accordo che sarebbe una cosa giusta, uno deve dire ma vale la pena riprendere una discussione che rischia di portare ancora una volta uno stallo politico e sociale. Sono d'accordo che questo governo deve prendere decisioni molto importanti, perché se non piglia decisioni importanti ripete il canovaccio del passato, ma c'è un limite a tutto. Io penso che ci siano regole, flessibilità, soprattutto d'entrata, che potrebbero essere allentate, d'accordo naturalmente con le parti sociali, che accompagnate con un po' di incentivi alle assunzioni danno quel contributo, sia pur limitato, perché tutto il resto riguarda la capacità di vendere, la domanda aggregata, i consumi, l'euro forte, eccetera, eccetera. Quel contributo che va nella giusta direzione, le risorse. Brevemente, i numeri, cioè le risorse e no, quanti posti. Non ci saranno perché si sta discutendo, anche sui giornali vede come lo stesso governo è minimamente in fibrillazione, perché questo gioco importante, peraltro, della coperta corta sta diventando anche un po' pericoloso dal punto di vista politico. La coperta è cortissima e tutti vorrebbero giustamente, anche dal loro punto di vista, tirarla dalla loro parte. Quindi i commercianti non vogliono l'aumento dell'IVA, le famiglie non vogliono ridurre l'IMU, le imprese vogliono ridurre il cuneo fiscale, il costo del lavoro, e i sindacati vogliono aumentare le buste paghe nette. Ecco, è chiaro che bisogna tenere tutto questo sapendo che per ora, in questa fase, prima di ottenere dall'Europa qualcosa di più, che non possiamo chiedere adesso, che dobbiamo ancora uscire dal periodo di infrazione del deficit, finché non riusciremo magari fra qualche mese a ottenere dell'Europa in più, queste risorse vanno distribuite fra queste diverse esigenze. Il mio personale idea è che il più possibile bisognerebbe portarlo sul lavoro dei giovani, quindi il costo delle imprese e anche un po' le buste paghe dei lavoratori, però mi rendo conto che anche l'IVA, anche l'IMU rappresentano, al di là della valenza politica che queste assumono, hanno degli aspetti rilevanti. Quindi l'ha detto il Ministro dell'Economia, c'è bisogno di 5, 6, 7, 8 miliardi, non è una partita facile. Dal momento che il debito e il deficit non vanno intoccati, bisogna tagliare, e questa è una partita complicata. Dopodiché, come si divide, sarà un pochettino tutti, penso, immagino. Grazie professor Della Ringa, io continuo a chiamarla professore, dovrei chiamarla sottosegretario, onorevole, non lo so, però mi viene professore perché tante volte l'abbiamo sentita a questi microfoni in questa veste, insomma, poi prima o poi mi abituerò. Grazie e buona giornata. Grazie a voi tutti. 9 in punto. Cominciamo con la sfilata. Che sfilata? La sfilata. Musica. Che sfilata? Chi sono? Musica. Chi sono? Questi signore e signori, sempre pagabilmente, parlando ecco a voi la moda, sono disoccupati. Questa è la sfilata della collezione primavera-estate 2010 dei senza lavoro. Questo è solo un piccolo campione, Fazio Fabio. Pensa che sono già 2,5 milioni di modelli. La moda italiana spopola, il mondo ci guarda con ammirazione. Sono disoccupati. Tutti disoccupati. Va? È la sfilata di moda. Tutti, certificati e garantiti. È roba di primissima qualità. Ad esempio, prendiamo Gianni. modello cassa integrato, non paga l'affitto da un anno, ha lo sfratto esecutivo, sta andando a ruba, se no non mangia, piace molto, ci sono richieste che non riusciamo a soddisfare, guarda che eleganza. Ma è follia, scusi. No, no, non è follia, lei si chiama Teresa. No, lei dico... Vabbè. È una ragazza madre, non ha i soldi per la babysitter, non sa chi lasciare la bambina perché il nido costa troppo, di conseguenza sta a casa e non lavora, per dire la creatività. Vabbè, l'argomento è serissimo, però insomma ci pigliamo anche un attimo di respiro, concetto la qualunque. Comunque è satira, quindi è un modo anche questo di parlarne. Marco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Senta, no, io volevo dire che secondo me tutte queste ricette vanno bene, però bisognerebbe partire all'incontrario, perché se io non ho da mangiare è inutile che vengo incentivato a comprare piatti e pentole nuove. Che è l'assunto dal quale siamo partiti all'inizio. Franco dalla provincia di Chieti, buongiorno. Sì, buongiorno. Diciamo che il professore mi ha anticipato, anche l'ascoltatore prima di me. Il discorso è questo: bisogna dare delle certezze alle aziende, oltre ad abbassare i costi. Abbassare i costi, come si fanno? Mancano i soldi? Bisogna veramente tagliare, bisogna avere coraggio, perché sennò fra pochi mesi andrà tutto a rotoli. Quali aziende stanno chiudendo dove sono io? Stanno andando in Romania, stanno andando in Brasile, perché anche per il discorso dell'IMU sui capannoni, e qua diventa proprio dura, difficile, e fra poco non ce ne sarà più per nessuno. Lei è un imprenditore, Franco? Io ho un piccolo panificio che alcuni anni fa avevo pure dei dipendenti. Adesso lavoro solo io e mia moglie, e perché mi conviene. Certo. Lo Stato non ci incentiva a lavorare di più, ci incentiva a lavorare di meno, perché abbiamo ci rimangono più utili lavorando meno e da soli che avendo personale. C'è molta concorrenza e poca offerta. Poca domanda, certo. Gustavo da Foggia, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, vabbè, i politici non capiscono che cos'è il mondo del lavoro, glielo rispieghiamo. Il mondo del lavoro è uno. Non è il mondo del lavoro dei giovani, è il mondo del lavoro di quelli di mezza età o degli anziani. Il mondo del lavoro deve essere, e della produttività, deve essere globalmente competitivo, concorrenziale. Cioè noi dobbiamo concorrere con la Romania, col Brasile, con la Corea del Sud, quindi il nostro costo del lavoro, spiegateglielo per l'ennesima volta, deve essere adeguato in modo da poter vendere il nostro prodotto, che semmai è anche di qualità maggiore, ma a un prezzo interessante. Perché se il prezzo non è interessante, le nostre aziende vanno all'estero, perché all'estero trovano meno mafia, trovano meno corruzione e trovano una casta politica che sarà semmai pure corrotta e mafiosa, ma che perlomeno li aiuta a lavorare. Sì, la ringrazio Gustavo, il discorso è interessante. Certo, per come la vedo io, naturalmente non è che ci possiamo mettere a competere con la Cina sul costo del lavoro, perché da quel punto di vista non se ne esce più. Possiamo metterci a competere con la Cina su altri fronti, Licia Mattioli, no? Beh, certo, ma le dirò che tutto quello che sono stato degli ascoltatori è corretto. Io però aggiungerei anche una cosa, se posso dirle, che quando si parlava di andare di delocalizzare, in realtà qui il problema è ancora più grave, perché le aziende chiudono e non delocalizzano neanche più. Capisce? Cioè, certo. C'è un problema proprio di mercato totale, interno, europeo, e poi, come dice giustamente lei, il mercato del lavoro e il costo del mercato del lavoro è sicuramente il problema in Italia, sicuro, ma ne abbiamo, come dice lei, altri, lo sappiamo, abbiamo tante zavorre in Italia, noi imprenditori sulle spalle, questo è un problema grosso. La stessa burocrazia, come diceva l'ascoltatore 2 minuti fa, no? Si ammazza anche nel contratto di lavoro, tornando all'origine del nostro discorso. Se lei pensa a tutta la burocrazia che è venuta fuori con la nuova legge sul lavoro, proprio per i contratti a tempo determinato, gli intervalli, eccetera, eccetera, questo non facilita, ed è un costo del costo. Per chiudere, perché poi so che ci deve salutare, alla fine questa decontribuzione o defiscalizzazione per i lavoratori tra i 18 e i 29 può aiutare, o è appunto solo un vago palliativo che oggettivamente serve a poco? No, io credo che sicuramente tutto quello che oggi aiuta l'imprenditore a fare il suo mestiere è utile. Cioè lei dice, mi scusi Matteo, lei dice messo nel calderone va bene, insomma, però ci deve essere un calderone, appunto, se no non, no? Sì, bravo, ci devono essere delle cose, come diciamo prima, ci deve essere un contesto nel quale ci si muove su più fronti, perché i fronti da risolvere sono tanti, questo è uno sicuramente uno dei più importanti, però dicevamo prima, se ci manca una politica industriale, prendiamo il nostro manifesto, no, della Confindustria, lei l'avrà visto, sì. E ci sono tanti punti che non funzionano e che non ci aiutano, e ci stanno mettendo in ginocchio, questo è il problema. Grazie Licia Mattioli, buona giornata e buon lavoro naturalmente. Buongiorno. Saluto anche Esther De Marco, imprenditrice anche lei, possiamo dirlo, sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Sostanzialmente, buongiorno. Sì. Anche lei di Torino, se non sbaglio. Volevamo la sua opinione, perché poi siamo scritti su Twitter ieri anche su questo tema. Volevamo la sua opinione su questo, insomma. Allora, in linea assolutamente con tutto ciò che è stato detto finora. E aggiungerei una piccola nota per quel che riguarda il sindacato, che fino adesso ha avuto un ruolo, secondo me, tutelare tutte le figure indistintamente, invece secondo me anche nell'ambito del lavoro ci dovrebbe essere comunque una meritocrazia, ecco, nel senso, ecco, che comunque, ma lei, forse ma... è la pecca, ecco, questa. Io però voglio la voce, io qua voglio la voce dell'imprenditrice, appunto, ma lei assumerebbe qualche giovane tra i 18 e i 29? Senza avere commesse nuove, senza avere lavoro nuovo, senza avere ordini, non posso assumere nessuno, anzi, in questo momento ho delle persone in cassa integrazione proprio perché non ho la possibilità di avere la copertura per tutti il lavoro, per tutti. Mi scusi, e se gli ordini ce li avesse, immagino che assumerebbe lo stesso, a prescindere da defiscalizzazione. Certo, ci fossero delle agevolazioni, meglio ovviamente. Tutta salute. Però il problema nasce da lì, cioè il politico in questo momento, prima di affrontare il problema del contratto, dei contratti, dei giovani, del lavoro, deve affrontare il lavoro, cioè come far tornare il lavoro in Italia, le commesse, quindi partendo da tutti i problemi che hanno detto prima le persone che hanno parlato, certo. Cioè la decontribuzione va bene, però proprio il fatto che in Italia, e non parliamo della Cina, guardiamo i paesi in Europa, cioè noi dobbiamo competere con i paesi in Europa, quando l'Italia e le aziende italiane offrono dei servizi che sono diciamo al top, nel senso che comunque l'azienda italiana tutela tutti, tutela la qualità di prodotto, la qualità, la certificazione del sistema, tutto, tutela la sicurezza dei lavoratori, tutto. Se ci sono altre nazioni che non danno, in Europa, parlo nell'interno dell'Europa, non danno le stesse garanzie, devono comunque garantire di poter offrire le stesse garanzie, o se no in qualche maniera essere estromesse dal mercato. Così si tornerebbe a produrre di più in Italia meno all'estero. Sì, questa è un'idea direi molto difficile da far passare. Però c'è, e su quello bisogna ragionare, sì. Su questo serviranno a qualcosa chi ha idee più precise al riguardo sulle cose da fare, perché comunque il ragionamento è solo e soltanto su questo: far tornare commesse e ordini da lavorare in Italia. Nel momento in cui si lavora in Italia, il contratto viene da sé, il lavoro viene da sé. Sì, ma appunto, De Marco, è quello che diciamo poi in apertura, che è questa inversione, clamorosa inversione dei fattori per la quale si dice, c'era anche appunto uno slogan elettorale, non c'è crescita senza lavoro. No, in realtà non c'è lavoro senza crescita. 9 in punto. Qualche messaggio che troviamo sulla nostra bacheca Facebook. Davide Torneri, sempre a parlare di incentivi a questo e aiuti a quello, si parla di miserie, pensare di tagliare la spesa pubblica inutile rimane un peccato capitale. Evidentemente sì, perché insomma se ne sente parlare veramente poco. Davide Senzalari scrive, sempre a proposito di questo, io quando sento che non ci sono le risorse impazzisco, solo ieri avete detto che manteniamo 13.000 dipendenti Rai e non ci sono le risorse per abbassare le tasse, stiamo facendo pagare a tutta Italia per mantenere questi e quelli, e aggiunge arriverà la troica anche qua. Insomma, questo non lo so, speriamo di no, perché da quel che abbiamo visto qualche danno in giro l'ha fatto. Antonio, no, anzi Marco da Milano, buongiorno. Sì, eccomi, pronto. Eccolo. Senta, io sono stufo di sentire questi politici che si riempiono la bocca del nulla. Fino adesso hanno litigato per 100 euro di IMU all'anno, perché poi la prima casa è 100 euro. Adesso stiamo litigando per il lavoro ai giovani. Il lavoro manca per tutti. Ci sono cinquantenni, padre di famiglia, senza lavoro. Gli sgravi li darei per chi assume questi, non per chi assume i giovani. Ci sono lavoratori autonomi che hanno chiuso le loro aziende, e si presentano nelle fabbriche e gli dicono: sei preparato ma non ti assumiamo perché assumiamo uno in mobilità perché risparmiamo dei soldi. Cioè, io non riesco a capire perché ci si perde tempo con queste cose. Invece, ci sono le aziende che anziché quando non sono più competitive, non aumentano i prezzi, tagliano le spese. L'azienda Italia sta aumentando i prezzi, ci sta aumentando le tasse, non taglia le spese. Girava tempo fa un rapporto, quando c'era il governo Monti, che se lo Stato italiano tagliasse di un terzo i propri dipendenti, la baracca funzionerebbe meglio di prima, prima forse meglio, però nessuno lo dice. Quindi è il caso che anziché fare altre cose lo Stato italiano facesse una bella dieta dimagrante. Sì, questo sicuramente, insomma, il modo di tagliare le spese si trova, tenga anche presente che poi queste cose vanno contemperate in vario modo, per cui se lei taglia di un terzo i dipendenti pubblici, poi si trova un terzo di dipendenti pubblici disoccupati e stiamo da capo. Però insomma, naturalmente sono ragionamenti che si possono fare sulla razionalizzazione della spesa pubblica e delle spese dello Stato. Antonio da Milano, buongiorno. Buongiorno, senta, come si dice, non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena, cioè nel senso... Io ho più di 41 anni di contributi e sto lavorando ancora oggi sono in giro col furgone per lavorare, ma io dico, ma al mio posto un trentenne, un venticinquenne, io dico 41 anni, sempre in un'azienda privata, mi sembra di aver dato abbastanza, no, questo Stato? No, io sono un costo eccessivo, da notare che sono 10 anni che prendo sempre la stessa busta paga, sempre nell'azienda privata, mi dica io costo a chi costo io? Io non me lo sono guadagnato quei pochi anni di pensione che forse riuscirò ad ottenere. Lascio il posto, scendo io da furgone, sale un 28enne, no? Un 25enne. Le cose non girano, no? Invece fanno lavorare... I sindacati dove erano quando ho fatto la riforma delle pensioni? Non ha pensato all'occupazione. Vale. Guardi, Antonio, io le posso solo dire questo, che teoricamente in un'economia che tira, insomma, questo contrasto non dovrebbe esserci, insomma, ci sono vari studi che lo dimostrano, cioè se l'economia tira questo problema non c'è, cioè la questione dell'innalzamento dell'età pensionabile e il lavoro dei giovani, però ripeto, devi avere un'economia che tira. Marco da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Ma senta, io ieri ascoltando il ministro Zanonato e l'altro ministro economico Comandi, io ho provato un brivido, le confesso che veramente dico, ma a che punto siamo arrivati? Cioè questi, ma possibile che un anno e mezzo di governo Monti non ci ha insegnato nulla? È stato un disastro cosmico, cioè, non ne hanno azzeccata una, cioè un ministro contabile, questo paese non ha bisogno di un ministro contabile, i contabili ce ne sono a migliaia, se noi non invertiamo la rotta, se noi non riusciamo a cambiare le cose essenziali, cioè la tassazione, il lavoro e tassazione, signori, è inutile insistere e girare. La casa è un volano formidabile e il settore edilizio l'hanno distrutto, letteralmente distrutto. Ecco perché l'IMU non è una tassa come le altre, al di là delle 100 euro, dei 200 euro, non è quello, è l'aspetto psicologico. Guardi, il conduttore, qui da noi in Toscana, nel Valdana, c'era un'industria fortissima legata all'edilizia, sono tutti capannoni chiusi, cioè è una desolazione, ci sono addirittura piccoli imprenditori che rompono le coperture, cioè distruggono i campanili per non pagare l'IMU. Cioè siamo arrivati a questo punto, c'è qualcosa di pazzesco. Quindi secondo me questo governo prima chiude i battenti e meglio è, perché tanto è una riedizione del governo Monti. Cioè secondo me eravamo partiti bene con l'abolizione dell'IMU, o meglio una sospensione, ma da quello che abbiamo sentito ieri, insistere sull'IVA è una follia, siamo alla follia pura. Grazie anche per la sua opinione, Marco. Sentiamo Davide da Roma, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Allora io volevo portare la mia esperienza come consulente di World Marketing Strategico per le aziende. Cosa significa? Però sentiamo abbastanza male, Davide. Adesso vediamo se riusciamo a recuperare la linea. Simone da Pordenone, buongiorno. Buongiorno. Niente, quello che voglio dire è che a mio parere, io mi occupo da sempre, prima cosa, di esportazione, di vendita all'export. A mio parere siamo eccessivamente penalizzati dal rapporto di cambio con il dollaro. A mio parere, se oggi avessimo una praticamente, se fossimo 1-1 con il dollaro, oggi almeno qua nella mia zona non ci sarebbe più crisi, perché le vendite ripartirebbero all'export, ripartirebbero alla grande. Abbiamo un mercato americano che compra prodotti cinesi solo perché hanno un prezzo più conveniente, diciamo, non certo perché hanno una qualità maggiore o migliore della nostra. Ci sono tantissimi che sono stufi di comprare prodotti di bassa qualità, ma continuano a comprarli perché i prodotti nostri sono penalizzati da un rapporto di cambio assurdo, 1,30. Sì. Chi mi spiega perché sì, in realtà guardi, Simone, abbia un 30% di valore maggiore al dollaro. Mi permetta di intervenire, Simone, che se posso permettermi, il punto non è esattamente questo, nel senso che in realtà le nostre aziende esportatrici, quelle che esportano dollaro o non dollaro, sono esattamente quelle che tirano e che assumono. Il problema nostro in questo momento, il problema italiano, è un problema di mercato interno che è sostanzialmente immobile, cioè lo snodo è quello, non è, ripeto, uno snodo che ha a che fare con il cambio. Quello che dico, ci sarà magari anche un elemento di questo tipo che potrà pesare, però la realtà è che per le nostre aziende, ripeto, le aziende che esportano, e se vi comprate il Sole 24 Ore, guardate l'intervista a Bertelli che lo dimostra ampiamente, le nostre aziende che esportano, quelle che insomma fanno veramente il mercato, sono aziende che tirano, funzionano, crescono e riescono anche ad assumere. Noi chiudiamo qui questa puntata, un ringraziamento come sempre ad Alessandro Marcotulli in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto, se volete possiamo continuare a parlarne su Twitter, mi trovate Simone Spezia, c'è la nostra pagina Facebook www.facebook.com/9in.radio24. In una nuova giornata di delirio di onnipotenza radiofonica, oggi condurrò per una serie di casi anche Focus Economia, quindi per chi vuole ci risentiamo dopo le 17, altrimenti con 9 in punto lunedì. Ricordati! Mancano 17 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.